Ajá. Ajá. Il mondo direttamente dal cubo. Vivo in un mondo strano, vivo una vita dura, spesso fuori misura come un male senza cura, dove la luce c'è il passo alla parte oscura, dove la speranza muore e lascia il posto alla paura. Vivo in un mondo chiuso dove non mi sento in gabbia, dove anzi do sfogo a tutta la mia rabbia. Sto in questo mondo dove tutto il male è possibile, dove una madre che ammazza il figlio è la cosa più plausibile. Vivo in un mondo dove non si pente Erika, che uccise ben due volte da assassina cinica. Lei che non ha lesinato sul fendente, ha sparso il proprio sangue in quel frangente. Vivo in un mondo dove sono l'unico creativo, dove è già tanto se posso ringraziare d'essere vivo, dove sei solo un illuso se speri di non essere cattivo. Hai capito? Non ti sbagli, questo è il mondo dove vivo. Qui un terrorista si fa saltare in aria pregando un certo dio di una fede sanguinaria. Ci penso e non capisco questa azione temeraria, penso la follia sia dovuta ad un virus nell'aria. Vivo in un mondo dove la pace è una bandiera, dove è sempre meno la gente che spera. Nel mondo mio non serve più neanche la preghiera. Dove vivo nessuno fa nulla e scende il buio della sera. Nel mio mondo la TV la fanno Maria e Costanzo, ma rivogliono nella Rai all'ora di pranzo. In tutto questo mondo io non trovo il mio spazio ed il prossimo mio ha sempre pronto qualche screzio. Vivo in un mondo dove è lecito il crudele, perché la gente che lo vuole inveendo sul creatore, ed io che non ho le prove per avere un posto al sole, sopravvivo dimostrando il mio spessore. Sempre dove vivo, un eroe Carlo Giuliani, che voleva ammazzare un carabiniere con le sue mani. In barba a 10, 100, 1000 in Assiria, i pacifisti devastano pure la città mia. Ma se l'omertà davvero rende tutto più difficile, se non denunci un torto, sei quantomeno complice. Da allora, Annalisa, Gigi e Paolo saranno morti in vano. Non possiamo non reagire e non dare una mano. Direttamente dal cubo. Anche questo è il mondo in cui vivo e di cui parlo. È la voglia di cambiarlo che mi spinge a farlo, a denunciare ciò che c'è da cambiare. Ma le cose sono troppe, solo non ce la posso fare. Eppure un mondo migliore non è certo impossibile, ma se non ci diamo da fare sarà sempre più invivibile. Allora per i nostri figli sarà davvero terribile. Volevi un'altra eredità? Però è la sola possibile. Qui un terrorista si fa saltare in aria pregando un certo dio di una fede sanguinaria. Ci penso e non capisco questa azione temeraria, penso la follia sia dovuta ad un virus nell'aria. Vivo in un mondo dove la pace è una bandiera, dove è sempre meno la gente che spera. Nel mondo mio non serve più neanche la preghiera. Dove vivo nessuno fa nulla e scende il buio della sera.